ringraziarvi di essere qui con noi e ringraziare il nostro ospite, appunto Giuseppe Festa, con Mirka Passarella, che ci aveva contattato ancora tanto tempo fa dicendoci: abbiamo un bellissimo libro che sarebbe interessante da presentare, il CAI, che è qui anche rappresentato da Maurizio Veronese, che saluto, ci tiene, insomma. Allora abbiamo detto bene, allora leggiamo il libro, a parte che non avevamo assolutamente dubbi sul suggerimento che ci veniva. E devo dire che la prima cosa che mi ha detto: ma è bellissimo, un thriller, insomma un giallo con una costruzione interessante, ma soprattutto anche questo legame con l'ambiente, che in un certo senso è una missione che ci portiamo dietro da qualche anno, nella convinzione che anche la biblioteca possa essere un modo per affrontare questo cambiamento culturale che è necessario alla base se vogliamo raggiungere degli obiettivi di sostenibilità, di ecologia della vita, insomma, no? Che sono previsti dall'Agenda 2030. Quindi abbiamo deciso che la biblioteca, almeno noi, il nostro lavoro lo vogliamo dedicare verso il bene comune, che in questo senso è un po' più, diciamo, ampio e investe tanti settori, con la nostra, insomma, dedizione alla cultura, ma soprattutto alla lettura, ecco. E questo appello che facciamo e questo servizio che destiniamo a tutti e a tutte, perché non abbiamo un target di età, non abbiamo un target sociale, non abbiamo niente. Il bello della biblioteca è che, in un certo senso, lo dico perché qui c'è anche Don Paolo Werner, è un po' una chiesa laica la biblioteca, no? Dove si può entrare, si esce, si sta, ci si ferma, si può uscire quando, insomma, senza doversi dichiarare. Adesso si sta, però. Ma si scappa. Si entra, ma un'oretta non si entra. Siamo qui tutti insieme con Giuseppe Festa, volentieri, che devo dire sono tanto contenta di conoscerlo personalmente. Ringrazio Mirka per questa occasione. Allora, ci allieterà anche, come vedete, con della musica. Sì, sì, sì. Voglio ricordare il libro, così lo trovate in biblioteca, ma soprattutto si può anche acquistare questa sera qui. Questo è il libro che ci presenterà una trappola d'aria, ma abbiamo altri libri anche per ragazzi, no? Sì, poi parleremo un po' di tu, cioè sarà un discorso un po' ampio. La luna e dei lupi, e poi qui c'è anche questa sera I figli del bosco. Io vi lascio subito in compagnia e vi ringrazio tantissimo. Buona serata, buon divertimento, e tornate a trovarci anche con le vostre classi, vero? Venite a trovarci, che siamo solo contenti di poter dare un servizio anche alla comunità più giovane. Grazie. Grazie. Brevissimamente, mi sono segnata due o tre cose di questo uomo qua, perché lui è uno scrittore di romanzi, racconti, articoli per National Geographic, Corriere della Sera, Repubblica, cantante e autore dell'Incalad, sceneggiatore, autore di reportage sulla natura trasmessi dalla RAI e tanto altro che non vorrei soffermarmi troppo. Comunque, ha accettato gentilmente questo invito dalla Commissione Cultura del CAI, il presidente Maurizio Veronese è stato salutato, lo ringrazio, per partecipare a questo progetto di formazione della lettura, avvicinamento alla lettura, alla natura, all'ambiente, appunto, gratuitamente, devo anche dire, perché bisogna anche dire, perché a volte si dà per scontato, no? Ecco, gratuitamente nelle scuole medie di Bolzano, nella scuola media Ugo Foscolo in questo caso, e quindi abbiamo anche colto l'occasione per presentare questo libro, che è appunto una trappola d'aria, questo thriller che lui ha scritto, il suo primo thriller, anche se c'era già un filo rosso negli altri. Insomma, non è solito scrivere gialli, Giuseppe, però le sue numerose pubblicazioni precedenti, parlo dal 2013, vado rapida perché non voglio portarvi a posto, però dal 2013 Il passaggio dell'orso, Rapporto dell'uomo, natura, gli animali, e qui ci sono sempre, mi piace perché poi nei suoi libri c'è sempre questo intercalare, la natura, l'ambiente, la storia di ragazzi che stanno nella natura. Mi piace molto questo aspetto qui, Infatti questi volontari del Parco Nazionale d'Abruzzo, dove si svolge questo primo libro, protagonisti questi due ragazzi e questo orso orfano, no? Quindi c'è una storia che non ve la racconto perché... Come non racconteremo quasi niente del thriller, perché poi con il thriller bisogna camminare sulle uova. Esatto. Eh? E poi via via la Luna dei Lupi del 2016, un best seller che ha ricevuto il patrocinio del WWF, e questo racconto sui Monti Sibillini, qui ci spostiamo nella zona Marche, no? Confine esatto. Con l'Abruzzo, mi pare, vero? Sì, sì, sì. Ecco, in quella zona lì, e qui questa sopravvivenza di questo branco piegato dalla fame, anche qui due giovani ricercatori che sono tra i protagonisti insieme appunto a questo lupo. 100 passi per volare, che molti di voi conoscono perché appunto l'avete letto, molti l'hanno letto appunto la Scuola Media Foscolo, proprio come nel torneo di lettura, quindi 6-7 classi l'hanno già letto. C'è qui la bibliotecaria, che saluto, Alessandra Carrara, Teresa Carrara, oltre alcuni insegnanti della Foscolo. E anche qui è stato molto apprezzato, ma domani mattina sentiamo cosa dicono i ragazzi, perché qui il protagonista è questo bambino ipovedente, che però non ha niente della vittima, no, per dirla in poche parole. No, poi, ecco, e qui c'è la storia dell'aquilotto, bracconieri, insomma anche qui c'è una storia molto affascinante, no? E altro, nel 2020 appunto inserisce nella raccolta Andrò tutto bene, quando pensavamo che andasse tutto bene in quei tempi lì, i cui proventi vanno alla lotta contro il Covid. 2021 Il Luci della Via Lago, premio Rodari e Bancarellino, anche qui protagonista un gruppo di ragazzi, la scomparsa misteriosa di uno di loro in questo lago, il lago di Iseo. Lì c'era già un inizio di thriller in qualche c'era modo già un forse. Inizio di thriller, sì sì, e poi lì sono andato proprio a pescare nelle mie radici, perché comunque è stato importante quell'ambiente per me, il luogo reale dove è ambientato il libro. Poi se vuoi ne parliamo. E adesso io lascio la parola a lui, perché è una trappola d'aria, ambientato in Norvegia, dove appunto lui è stato dal ventenne, abbiamo scoperto, dove poi ha deciso che si è così appassionato alla natura che ahimè ha cambiato facoltà da ingegneria, poi è passato a scienze naturali con la gioia di suo padre. E niente, i protagonisti sono... Beh, io devo dire il mio punto di vista molto rapidamente, perché se no svelo subito quello che non devo svelare, è che comunque la natura è protagonista, perché c'è una natura fragile, come l'hai definita tu, è impetuosa, non ricordo bene l'aggettivo, comunque è una natura bellissima, ci sono dei personaggi che ti coinvolgono. Io dicevo appunto a Giuseppe, non sono una lettrice di gialli, ma insomma di molto altro, però questo mi ha molto appassionato, perché ci sono tanti aspetti che ti appassionano, e mi hanno molto appassionato i personaggi, non solo Marcus, dicevo, che è il protagonista, che ha una sua crisi, insomma questo ispettore di Oslo, no? Ma questa Valentina, questa ricercatrice, no? Questa ragazza piena di passione, che fa questo lavoro con una passione enorme, questo personaggio, questa ragazza italiana che vive lassù, si occupa di balene, insomma, che ha questa facoltà di ridere e di lavorare, e questo mi è piaciuto un sacco, e insomma, e tante altre cose, però come dicevo non vorrei dirvi altro, perché vorrei lasciare la parola a Giuseppe, che ringrazio davvero. Ti ringrazio. Grazie a te per l'invito e a voi naturalmente, al CAI. La Norvegia, perché ci sono stato da 20 anni, è vero, ed è un viaggio che in realtà mi ha cambiato parecchio. Era un momento buio della mia vita, l'hai accennato tu, mi sentivo, se vogliamo, anch'io in una trappola d'aria, no? Da un luogo dove hai l'impressione di non poter uscire, perché sono cresciuto, soprattutto appunto dall'adolescenza in su, predestinato a prendere, diciamo, il testimone da mio papà. Mio padre è ingegnere, avevo vissuto qualche anno prima il dramma familiare di mio fratello maggiore, che aveva scelto di fare l'insegnante. Mamma mia! Per cui Io già ho detto mai più una cosa, cioè io ovviamente farò quello che sono destinato a fare. Poi quando mi sono invece trovato alla fine del liceo, sono iscritto a ingegneria meccanica, eccetera, ho capito che non era il mio. Non era il mio, però avevo molta paura di deludere soprattutto mio papà, di dargli il colpo finale, diciamo. E in questo momento che è arrivato comunque. È successo che così quando non si ha più speranza si fugge, e quell'estate ho appunto alla fine del primo anno con un paio di esami fatti per miracolo sono partito in direzione non Norvegia, in direzione nord Finlandia, sono andato, e lì il destino ha voluto che su un sentiero ai confini con la Russia, in un parco nazionale era, ma è il posto veramente più sperduto del mondo, da lontano vedo un gruppo di ragazzi miei coetanei che si avvicinano, e dall'idioma capisco che non sono finlandesi, anche se assomigliava. Una comitiva di bergamaschi che io conosco, cioè io conosco la lingua bergamasca perché i miei nonni si sono trasferiti sul lago di Iseo quando io ero un bambino, e io ho passato lì tutte le mie estati, e poi mi sono trasferito anch'io, vivo da quelle parti. Per cui, compreso l'idioma, ci siamo incontrati, ovviamente, quando ti trovi in quei posti sembra di essere fratelli, no? Per cui abbracci, mai visti, però abbracci, e mi hanno detto, ma devi andare assolutamente in Norvegia. Loro avevano fatto il giro della Scandinavia e stavano tornando giù attraverso la Finlandia. E mi hanno descritto queste isole Lofoten, che erano facilmente raggiungibili, effettivamente, da dove mi trovavo. E allora ci sono stato qualche giorno, e lì è come se si fosse riaccesa un po' la luce, per cui ho capito che insomma io avevo una passione che avevo coltivato fin da bambino per la natura, però lì ho capito che la mia attività, il mio destino era più legato a quello. Per cui sono tornato a casa e ho trovato il coraggio di dare la mazzata a mio papà, che ha odiato la Norvegia in una maniera pazzesca, ovviamente. Poi subito dopo quell'esperienza norvegese, in realtà ho fatto un periodo di volontariato di 10 giorni al Parco d'Abruzzo, e le due cose insieme hanno scatenato questo cambio di rotta. No, voglio rassicurare i presenti, mio papà poi l'ha presa, cioè ha superato la cosa. Adesso è un arzillo novantenne e vuole assolutamente, ha capito che non avrei fatto un granché come ingegnere, e quindi adesso vuole leggere i miei libri anteprima, fa delle cose imbarazzanti. Ve ne dico due. Una, vabbè, è prevedibile. Va nelle librerie, compra il libro e poi al momento di pagare dice: mio figlio, così no. Questo me l'ha raccontato mia madre, che la seconda volta è uscita subito, la seconda capitolo, quindi fa queste cose, cioè si vanta inutilmente. E poi l'altro giorno, insomma, qualche settimana fa, prendiamo un caffè e usciamo dal bar, e mi dice: guarda la macchina, guarda la sua macchina. La guardo, mi sembra normale. No, guarda sull'1.8, ho messo tutti i tuoi libri. E aggiunge: così ti faccio pubblicità. Allora adesso telefono subito ai milanesi, dico di non preoccuparsi per la campagna promozionale, perché tanto siamo coperti. Siamo a posto. Si prende i suoi meriti. E quindi questo è stato un primo legame che ho con la Norvegia. Sono tornato altre volte. Io sono un grande appassionato di natura italiana, tutti i miei libri sono ambientati tra gli Alpi, gli Appennini. Però insomma, per questa storia in particolar modo, vi dico la sinossi in tre parole proprio. Sulle isole Lofoten c'è un serial killer che sembra vendicare la natura, Quindi uccide chi uccide a sua volta gli animali con la legge del taglione, quindi usando le stesse armi che le sue vittime hanno usato contro gli animali. E ci sono questi due personaggi principali: Marcus è un ispettore di polizia dal passato e la presente anche difficile. Un anno prima ha perso una gamba, una parte della gamba in un misterioso incidente di servizio, e ha perso il suo lavoro anche, nel senso che è stato messo un po' da parte. Lui è un uomo che vive per le indagini, lì riesce a controllare le sue emozioni, riesce a non pensare anche forse troppo alle sue emozioni. E, come dice Valentina, è bravissimo a interpretare le emozioni e i sentimenti degli altri, ma con se stesso è un disastro, un po' come quei psicologi che salvano le famiglie, però poi mentre la loro va in malora. E questa Valentina, che è una ricercatrice, studia le balene, entra nella storia non come detective, perché io odio i film e i libri dove la persona qualunque a un certo punto comincia a indagare, svela, scopre. Però ecco, comincia a indagare su Marcus innanzitutto, perché questo personaggio le ricorda un po' le misteriose creature marine che lei studia, no? Per cui cerca di decifrare un po' Marcus. E poi soprattutto Valentina per lavoro è abituata a interpretare, o meglio cercare di interpretare, il linguaggio dei cetacei, delle balene megattere in particolar modo, e quindi è abituata a cambiare il suo punto di vista, la prospettiva in cui guarda le cose, e questo suggerimento aiuterà molto Marcus, che invece è molto razionale. Invece questo serial killer sembra agire in modo del tutto irrazionale, segue una sua razionalità in realtà, e il movente che non vi faccio nessuno spoiler, perché poi è una cosa che già dalle prime pagine Marcus intuisce: il movente in realtà non è la semplice vendetta, ma è un movente più profondo e forse ancora più spaventoso. E quindi insomma questa alchimia tra Marcus e Valentina appunto dà il via un po' a tutto questo lavoro. Come dicevi tu, Mirka, giustamente è un libro dove la natura è presente a sia come appunto descrizione dei personaggi, descrizione dei paesaggi, sia perché appunto ci sono diverse tematiche. E poi c'è questo personaggio femminile, questa ricercatrice. Vabbè, qua c'è poi un aneddoto incredibile, sì, te lo accennavo prima. No. Sì. Allora, mi vergognerei, cioè non lo racconterei se non avessi delle prove, perché sembra la classica così trovata per le presentazioni, storytelling per abbellire, per raccontare un episodio. Però è successo questo, che io ho scritto è il primo libro che scrivo, per il quale scrivo prima la trama con diciamo una caratterizzazione di personaggi eccetera, lo propongo a un editore e solo dopo scrivo proprio il libro. In genere non facevo così, e così ho fatto. Quindi durante il primo lockdown, quindi nel 2020, ho immaginato questa trama e ho immaginato con precisione i personaggi, e avevo tracciato Valentina per sommi casi, anzi no, molto dettagliatamente, ma i punti cardinali erano questi: trentenne, laureata in scienze naturali, che studia le balene in Norvegia, in particolar modo alle isole Lofoten, in Norvegia da circa 5 anni, in modo da poter parlare bene l'idioma locale. E poi, sfruttando, diciamo, quando ho avuto l'ok dalla casa editrice, prima di iniziare a scrivere il libro, ho sfruttato una breve finestra di apertura dei voli, perché la Norvegia aveva chiuso completamente i voli durante il lockdown, e quindi a settembre del 2020 sono volato alle Lofoten, dove tornavo appunto, cioè c'ero stato da ragazzo in realtà lì, per rirespirare i luoghi, e poi, come spesso mi succede vedendo dei luoghi, poi mi vengono delle idee anche che poi vanno a così entrare nella trama o comunque a cambiarla. E lì su un'isola che si chiama l'isola di Andøya c'è questo paese, Andenes, dove c'è questa nave oceanografica, e sapevo che partiva giornalmente per degli studi, i suoi studi. E quindi sono andato su questa nave per seguire i ricercatori. E a un certo punto mi trovo davanti una ragazza italiana, cioè Sara Mesiti si chiama. e cominciamo a parlare, a chiacchierare, la mia curiosità, cosa ci fai qui, e ve lo giuro, no. 5 su 5, trentenne, vabbè un anno in più di Valentina, concediamo, laureata in scienze naturali, in Norvegia da 5 anni, quindi 3, studia le balene alle Lofoten. Quando, cioè, alla fine, cioè io ero lì, no, e a un certo punto ho esclamato una cosa che non ho mai fatto e non farei mai più. Mio papà sì, lo farebbe, ma io no. Ho detto, Sara, io sono uno scrittore e tu sei il mio personaggio. Così proprio esaltato con gli occhi. Lei, questo ci sta provando, questo ci sta provando in modo creativo, ha detto, no? E invece dopo, insomma, siamo diventati amici e nei mesi successivi in realtà mi ha aiutato molto, perché mi ha offerto lo sguardo suo sulla Norvegia. È una ragazza che, pur avendo un carattere completamente diverso da quello che ho descritto in Valentina, ha la stessa caparbietà, come molti giovani neolaureati italiani, aveva avuto pochissime, anzi zero occasioni di poter fare quello per cui aveva studiato, e quindi dopo un paio d'anni di lavoretti, supplenze qua e là, ha deciso di prendere, andare in Norvegia, dove a Bergen, dopo 2 mesi, gli hanno dato in mano un progetto clamoroso e non credo che tornerà più, a meno che, non so, succeda qualcosa in Italia. Però mi ha ispirato molto, ecco, è stato un bel incontro. A volte succedono queste cose. Abbiamo solo appurato che non ha incontrato il serial killer. Esatto, la preoccupazione è stata questa, essendoci ancora. Non so se ha incontrato Ailo, perché anche un altro personaggio è anche bello nel libro, perché ci sono anche queste storie di amicizia che a me intrigano molto, no? Come avete capito. Quindi anche questo sì. Amico mi sembra che sia un'altra bella figura nel libro, no? Ailo, che all'inizio del libro è quello che, anche se casualmente, salva Marcus, perché noi ritroviamo Marcus nella prima pagina del libro con una pistola in bocca, si sta sparando, è affondato in una profonda depressione per quello che vi avevo detto prima. Poi lui ha una personalità particolare, perché ha perso la mamma quando aveva 10 anni, e un po' l'io bambino si è un po' congelato lì, cioè non ha diciamo avuto lo sviluppo, non ha fatto tutti quei gradini che ti portano all'età adulta in modo armonico, per cui la sua componente anche irrazionale si è congelata lì, e quindi nel libro lui deve fare, insieme a Valentina, farà questo percorso per riprendere un po' ciò che questa storia è interrotta. E quindi, insomma, viene interrotto in realtà in questo momento da Ailo, il suo collega della polizia, che viene a casa sua e appunto lo informa che è stato ritrovato su una spiaggia vicino una gamba tranciata, proprio la sua stessa gamba, diciamo, no? Ok, e questa coincidenza lo ferma, lo riporta nelle indagini, e poi, siccome lui è un uomo che ha delle priorità, e per lui le priorità è l'indagine, e quindi la pistola rimane lì. Ailo è un personaggio completamente diverso da Marcus, molto mediterraneo. Sì. E qualcuno ha detto, ma è possibile che ci siano personaggi così in Norvegia? Sì. Assolutamente. Più si va a nord, più in Norvegia, più ride. Perché? Avete avuto esperienze norvegesi? No, però pensavo ad altro, però no, continui, mi scusi. Okay, no, niente. E nel nord della Norvegia, più si va a nord, più, diciamo, le persone, per esempio, parlano ad alta voce, più sono colorite e considerano gli abitanti di Oslo un po' persone un po' più snob, un po' più. E quindi in realtà, e poi c'è anche un grande stereotipo sui norvegesi e scandinavi in generale, no? Si pensa a queste persone estremamente fredde, ma io ho trovato un popolo invece molto molto aperto, caldo e soprattutto, magari non all'apparenza, non nell'immediato, ma soprattutto con una grandissima attenzione per gli altri. In Norvegia vi può capitare di camminare per strada e incontrare delle persone che vi offrono un aiuto senza chiederlo, cioè magari vedono un turista che si guarda intorno, si fermano e ti chiedono: ha bisogno di qualcosa, vuole un'indicazione? A me è successo 2 o 3 volte. E quindi in realtà Ailo non è poi così un così. Sì, è ben connotato in modo ben diverso, no? da Marco, sì. Ha una storia completamente diversa. Sì. E questo è un po', diciamo, un po' la storia di quello che c'è dietro al libro, a una trappola d'aria. Una trappola d'aria, il nome del libro, non sveliamo il significato ultimo, perché poi si comprende nelle ultime pagine del libro, però deriva in realtà da una tecnica di caccia delle balene, è qualcosa di molto affascinante. Le balene praticamente, quando individuano un banco di prede, di pesce per esempio, non so, aringhe, acciughe, per riunire il branco o il banco di pesce, emettono dallo sfiatatoio o dal sifone una cortina di bolle e cominciano in profondità a descrivere una spirale. E mentre descrivono questa spirale salgono in superficie, per cui si crea una specie di cono, che può, un cilindro, che piano piano si restringe mentre le balene salgono, quindi le prede all'interno, vedendo questo muro che loro pensano invalicabile, si restringono, si compattano, rimangono imprigionate in questa che i ricercatori chiamano bubble net, quindi rete di bolle, e alla fine le balene, spesso coordinandosi in più esemplari, salgono e prendono in un boccone quintali di pesce. Andate, se andate su YouTube e cercate bubble net, vedete delle immagini incredibili. Ed è affascinante comprendere come questi gruppi familiari si coordinano, anche grazie attraverso il linguaggio, per applicare questa tecnica, che è molto, molto affascinante. In realtà mi ha affascinato molto, e nel libro ha anche poi un significato. Ne parla anche parecchio, no, di questa tecnica del lavoro proprio di Valentina. Sì. Non so se voi interrompiamo, facciamo, se ha qualche domanda, qualcuno di voi l'ha già letto, vuole porre delle domande su qualcosa, su un approfondimento. Io ho paura di fare delle domande, no, allora, perché ho paura di svelare, capito? Quindi forse su una trappola d'aria abbiamo detto anche, magari prima ti accennavi a 100 passi per volare, sì, che è stato letto credo da alcune insegnanti qui e dei ragazzi, e ne parlerò appunto domani mattina, sì, in 2 classi. E se volete vi posso raccontare quello che c'è dietro il libro, che è molto, almeno per me, è stato veramente emozionante, perché qualche anno fa il mio editore Salani e il CAI mi chiesero proprio di scrivere un libro per aprire una nuova collana, i Caprioli, che volevano essere dei libri di narrativa ambientati in montagna, e mi avevano chiesto di scrivere un libro per ragazzi. In quel periodo però avevo in mente altre cose, non rientrava nei miei progetti, per cui avevo preso un po' di tempo, però avevo deciso di rifiutare, insomma. Se non che è successo che ho incontrato una persona, ho incontrato un ragazzo non vedente, che nella realtà si chiama Sandro, nel libro ho chiamato Lucio, che praticamente è abruzzese, che aveva perso la vista quando aveva 4 anni, prima un occhio poi l'altro, e quindi non era soltanto ipovedente, cioè non soltanto, cioè era completamente cieco, e come tutti i ragazzi della sua età, i bambini della sua età, si era abituato a usare gli altri sensi, e grazie ai genitori che con grande, cioè non è facile quando tuo figlio a 4 anni perde la vista, è molto il rischio di prendere, di metterlo sotto una cappa di cristallo è elevatissimo e anche comprensibile. Loro invece hanno cercato di dargli libertà il più possibile, di fargli fare le sue esperienze, e poi lui ha questa zia con la quale, che è una gran camminatrice in montagna, e quindi lui è diventato un grande appassionato di montagna, quindi fa delle camminate, conosce tutti i versi degli animali, è un grandissimo imitatore di versi degli animali. io lo chiamo Parla coi lupi, perché e poi ve lo racconto. E, insomma, è successo, e poi è un grande lettore attraverso i sistemi, un po' la zia che gli leggeva quando era piccolo i libri ogni sera, e poi insomma attraverso il Braille, gli audiolibri, eccetera. E gli è capitato a scuola di leggere Il passaggio dell'orso, il mio primo libro, che è ambientato in Abruzzo, al Parco d'Abruzzo, dove ci sono due volontari protagonisti, due giovani volontari. E lui, leggendolo, ha avuto voglia di fare anche lui quell'esperienza. Quindi ha chiesto ai genitori, eccetera. E, ecco, hanno telefonato al parco per prenotare, però non hanno detto che era non vedente. E io so bene com'è la storia, perché un mio caro amico, Emanuele, è responsabile dei volontari, per cui è lui che poi me l'ha fatto conoscere. Ed Emanuele mi ha raccontato che quando ha visto il ragazzino arrivare con la zia, c'era un gruppo di 15 ragazzi più o meno della sua età e dovevano stare lì 2 settimane, e ha capito che era non vedente, e dopo ha preso la zia e ha detto: ma perché non me l'ha detto? Perché avremmo fatto delle attività adatte per lui. E la zia ha detto: ah, ecco, proprio per questo che non gliel'abbiamo detto, nel senso che Sandro non vuole essere, tra virgolette, un peso, comunque condizionare gli altri. Quello che può fare, fa. E poi vediamo, cioè non è un problema. Beh, Emanuele mi ha detto che quei 15 giorni, lui ha fatto migliaia di turni praticamente di volontariato negli ultimi 30 anni, e è stato il turno più bello della sua vita, perché ha scoperto lui stesso delle cose bellissime. Innanzitutto i ragazzi erano, si dividevano, no? La maggior parte erano lì un po' costretti dai genitori, no? Vai a fare un qualcosa, no? Mentre magari, ecco. Alcuni erano motivati, però. Beh, invece lui è stato un catalizzatore, perché la sua determinazione, la sua voglia di fare, di sperimentare, ha contagiato tutti. Per cui si è creato un bel clima. Lui poi è di una simpatia estrema. Durante una passeggiata con un guardaparco, il guardaparco a un certo punto ha detto: e qua c'è anche questa zona, c'è un branco di lupi che noi conosciamo bene. E allora i suoi amici, che sapevano, no? lui sapeva imitare bene gli animali, hanno insistito: no, dai Sandro, imita il lupo. No, mi vergogno. Alla fine, questo mi ha raccontato proprio questo guardaparco, cioè ha imitato l'ululato, gli ha risposto il branco. E lui, e guardaparco, mi ha detto: io non ci sono mai riuscito, cioè non ho mai, cioè, io che vivo qua non ci sono mai riuscito. È stata una, allora da allora e parla coi lupi. E l'anno successivo, quindi lui aveva 12 anni, l'anno successivo io sono andato a presentare un libro al parco, e questo mio amico mi ha fatto conoscere appunto Sandro. E l'incontro con Sandro è indimenticabile, ma indimenticabile anche perché all'inizio ero veramente molto teso. E mi sono reso conto che forse ero teso perché era la prima volta che incontravo un ragazzo della sua età non vedente. Forse addirittura era la prima volta che mettevo lì a parlare con una persona non vedente, in realtà. Perché io non ne conosco, in realtà, è così. E quindi ho cominciato a farmi delle paranoie assurde, tipo: quando arriva, come faccio a salutare? Cioè, gli si dà la mano? No. Si abbraccia? No. Perché immaginato, uno non ti conosce, sente qualcuno che ti abbraccia? No. Poi cose del tipo i verbi, no? Allora, non usare il verbo vedere. Cioè, cosa hai visto? Ci vediamo, noi lo usiamo continuamente. Nella mia testa, c'era una parte della mia testa che diceva: questa è una gaffe che non bisogna fare. Beh, insomma, è arrivato Sandro, siamo salutati molto semplicemente con un ciao, e poi la prima cosa che mi ha detto è stata: ieri sono andato con una mia amica in montagna e ho visto un'aquila meravigliosa. Quindi mi ha subito spianato la strada. E ho cominciato a descriverla, a descrivere, diciamo, il verso, il vento, no? Immaginava il vento sulle sue piume, lo sentiva sulla sua pelle. E poi ha cominciato a descrivermi anche come si muoveva, il suo volo, che non sbatteva mai le ali. Mi ha detto: siamo stati lì mezz'ora e lei non ha mai sbattuto le ali. Mi ha descritto com'era, come volava, e ho capito che non solo stava utilizzando tutti gli altri suoi sensi, ma lui in realtà vedeva anche attraverso i racconti della sua amica, che gli ha fatto un racconto dettagliato dell'aquila. E insomma, era un ragazzino completamente a suo agio e non cupo e triste come io mi immaginavo fosse un ragazzino di 12 anni o 13, non vedente. Faceva molte più cose di quante ne avessi fatte io alla sua età. E qualche settimana dopo, pensando a questa cosa, ho detto: ma sai che forse quel libro potrebbe avere un personaggio come lui? Allora ho chiamato la sua famiglia, ho chiesto insomma se avrebbe avuto piacere, in una storia completamente inventata, diciamo, di diventare il protagonista comunque, cioè un protagonista proprio come lui, come era lui, che in realtà non ha il problema del suo limite, ma il suo problema nel libro, e poi ho scoperto che in realtà mi ha detto la mamma che ha anche il suo problema, e questo non lo sapevo, il problema suo è di non accettare l'aiuto degli altri, quindi non di non poter fare cose, ma di fare cose e di non accettare mai l'aiuto. Quindi lui non vuole il bastone da guida perché altrimenti quello lo identifica subito con un vedente, non vuole il cane per lo stesso motivo, vuole essere considerato da subito un ragazzino come gli altri e non un non vedente, giustamente anche. E quindi insomma è nato così, 100 passi per volare è nato così, gli ho dato il nome Lucio proprio per giocare sul fatto che vivesse nel buio, ma era un buio apparente, perché poi dentro era una persona estremamente luminosa, e proprio il fatto di non vedere gli altri in realtà gli permetteva di non giudicare dalle apparenze, quindi di andare più in profondità. E vicino a Lucio nel libro ho messo un'altra, ho inventato in questo caso un personaggio, una ragazza, Chiara, che ci vede benissimo, ma gli altri non vedono lei, o meglio, la vedono in modo molto diverso da come lei si sente, semplicemente perché è una ragazza chiusa, non è riuscita a farsi conoscere dagli altri, mentre invece con Lucio si trova subito bene, subito a suo agio, capisce che lui non la giudica dall'esterno, dall'apparenza, e apprezza anche questo fatto di poter stringere un'amicizia essendo se stessa, e si ripromette di... E quindi è un percorso, non è una storia sulla disabilità, è una storia sulla fragilità e sull'idea che chiedere aiuto. Ecco, poi c'è un altro episodio invece che mi è successo, bellissimo, che ricordo con grande affetto, a una presentazione. Eravamo a Verbania e c'era una scuola media che aveva letto il libro, e l'avevano letto proprio tutti, cioè dalla prima alla terza, era un progetto grosso, e quindi c'era questo auditorium e io ho raccontato un po' come avevo conosciuto Sandro, come ho fatto con voi adesso. E poi c'è stato un momento delle domande, e lì appunto davanti a 300 ragazzi, 250-300 ragazzi, ha alzato la mano una ragazzina di seconda media, Elisabetta si chiamava, me lo ricordo benissimo, anche perché poi c'era un giornalista presente che ha scritto anche un bel articolo su questo episodio. E lei ha alzato la mano, e gli hanno portato lì il microfono, e lei con voce un po' tremante ha detto: io non devo fare una domanda, devo dire una cosa. E siccome appunto aveva la voce un po' traballante e tesa, si è calato subito il silenzio, no? Chissà cosa ci deve dire. E lei ha detto che insomma si era riconosciuta in Chiara, ok? E anch'io non sono stata capace di essere me stessa, di farmi conoscere per quello che sono, quindi i miei compagni non mi conoscono veramente, e è il mio obiettivo, questo è il mio punto debole, diciamo, vorrei riuscire a superare questa cosa e aprirmi anche con loro. E lì c'è stato un momento di silenzio, e poi c'è stata un'esplosione di applausi proprio, tutti i ragazzi, vabbè, insegnanti con un po' di lacrimoni, e è stato un bellissimo momento. Sia perché appunto lei aveva avuto il coraggio di dire questa cosa, ma soprattutto per l'applauso che c'è stato, perché i ragazzi hanno capito che quella cosa che ha detto, cioè mettere a nudo una sua fragilità, una sua debolezza, in realtà facendo questo Elisabetta aveva dimostrato un grandissimo coraggio. Cioè è facile dire io sono bravo a fare questo, sono bravo a quest'altro, molto più difficile, soprattutto a quell'età, dire io ho questa fragilità, ho questo problema. Perché è stato un momento bellissimo che io mi porto sempre nel cuore, e spesso lo racconto nelle scuole, e se avrò l'occasione lo farò anche domani. Sì, beh, sentiamo anche domani, poi tanti ragazzi avranno tantissime domande da fare, penso, no? Credo. Ma anche voi, credo, no? Avete tantissime domande da fare. Voi. Ma noi abbiamo conosciuto anche qui, al posto, diceva Maurizio, mi facevi cenno, Alessia Refolo, che forse voi avete anche conosciuto, anche una ragazza ipovedente, che è stata invitata qui dal CAI, ma anche attraverso il Film Festival di Trento, e ha incontrato la biblioteca, ha incontrato dei ragazzi, e anche lei, poi lei ha fatto, è un'energia vitale che ti travolge, no? Questa sua energia vitale, questo scricciolo che mi sembra che sia anche campionessa paralimpica di arrampicata, campionessa europea di sci nautica, fantastico, di ciclismo. Come si chiama? Alessia Refolo. Ok, vai a cercarla. Sì, sì, vado, merita, assolutamente. È veramente incredibile. Cieca non dalla nascita, sì? Da un glioblastoma allo stomaco, presa in un anno e mezzo, operata, le medicine le hanno tolto la vista, Urco. Ma non subito. Detto che a un certo punto, un giorno, le raccontava, e lo racconta anche adesso, stava scrivendo una lettera con quel poco di visione che aveva, e buio, mamma, accendi la luce. Mamma mia. E lì, certo, calato il buio. Mm-hmm. Però non si era. Allora, vive da sola in un appartamento, lavora in banca. Quanto a tempo, perché certo, questo, immagino, naturalmente. Immagino. Però ha questa sua autonomia, no? Ecco, si sta facendo conoscere quello che dicevi. Per quello, certo, quello che è, certo, è così. Esatto. E tranquillamente è una bellissima ragazza, tra il resto, ma ha una forza, un'energia che contamina chi gli sta vicino. Certo. E lei ha fatto, adesso quando raccontavi di Sandro che ha visto l'aquila, lei appunto quando era qui al Parco Cappuccini ha incontrato delle classi, perché ha presentato, ha scritto Se vuoi puoi un libretto per i bambini piccoli e poi invece una storia di coraggio, insomma un altro per ragazzi più grandi, raccontando la sua esperienza, ma incontrando i bambini appunto lei raccontava la sua vita proprio come una qualunque ragazza di, certo, di 23-24 anni che vedeva delle cose, ne faceva altre e i bambini che all'inizio erano titubanti, esattamente come stavi raccontando tu nel tuo incontro di Sandra, quando hanno visto che lei era assolutamente a suo agio nella vita e anche con le domande di tutti, si sono hanno avuto il coraggio anche loro di porre appunto quelle domande, ma come ti organizzi, come fai a fare la spesa, insomma le domande più banali, ed erano stupiti, e secondo me appunto questo ti permette, come dire, di capire che se vuoi puoi, come diceva lei, no? È stato un messaggio bellissimo. Ha avuto addirittura con Isolde Kostner a patinare sul ghiaccio. Sì. Quindi, e c'è un video, perché l'ha fatto in una trasmissione Rai, l'avevano ripresa, si vede lei che patina, a un certo punto la Isolde le molla la mano e lei che gira per il ghiaccio libera, felice, con un sorriso incredibile. Mamma mia, che forza e che coraggio, soprattutto perché pensate voi a... Poi la portiamo a Bolzano, sempre tramite il CAI, con Mirka, in qualche scuola, perché merita. Sì, merita. Sono queste esperienze, credo, come leggere libri di un certo tipo, per i ragazzi che possano crescere. Sì, rimangono assolutamente. E gli diano delle motivazioni anche per fare. Sì. Quello che oggi spesso manca. Vabbè, i ragazzi si nutrono di esempi. Esatto. Cioè, hanno bisogno, esatto, soprattutto a quell'età, sono alla ricerca continua e anche nei libri in fondo li cercano. Cioè, devono comunque entrare in sintonia con i personaggi e ricercano sempre qualcosa che li riguarda da molto vicino. In realtà poi lo facciamo tutti, però in particolar modo con l'età. Mm-hmm. Sì, infatti è il motivo per cui, insomma, ecco, leggere questi libri e poi avvicinare i ragazzi attraverso questi, a se stessi, agli altri e anche alla natura, è un po' il nostro, no, progetto in questo momento. Ecco. Quindi, un po'... Ciao Giulia. Ciao. Grazie. Domandina stupida. Il titolo, una trappola d'aria, riferito proprio alle bolle che sì, apparentemente, cioè nel senso quello è il primo significato, poi ce n'è un altro invece più simbolico che però si svela nel finale, legato più più alla situazione in cui si trova Marcus e alla sua evoluzione, per cui quello è. Se non mi fate domande rischiate che mi canti una canzone. Questa chitarra Alessandra. Aleggia. Scrittura per ragazzi, scrittura non per ragazzi. Sì. Più, allora, più difficile la scrittura per ragazzi, secondo me, nel senso, mi spiego, sono, no, non dico che sono cose diverse, ci sono a volte delle regole diverse, però in realtà io non ho fatto mai troppi sconti ai ragazzi, in realtà, perché sono dell'idea che come linguaggio non possiamo seguire la tendenza attuale, altrimenti finiamo in un baratro senza fine. Perché oggi tutti i librai, i bibliotecari e insomma le persone che conosco che lavorano nelle scuole mi parlano di un forte impoverimento degli ultimi anni legato principalmente all'uso dei nuovi canali di comunicazione che sono sempre più semplici, anche i nuovi social, cioè Facebook per i ragazzi è medioevo, cioè con troppe parole innanzitutto, quindi si va verso dei social media che sono dei social che sono sempre più immagine e meno parole, quindi Instagram, però ce n'erano già ancora qualcosa per andare fino a TikTok, quindi le parole devono scomparire e devono rimanere le immagini. Ora, questo è molto rischioso, molto rischioso per l'evoluzione diciamo armonica e del pensiero dei ragazzi. Se voi vedete quella, se un ragazzo vede quella copertina, ha un atteggiamento passivo nei confronti della copertina, cioè la sta osservando, quindi vede una casetta, la vede, la recepisce. Se invece di vedere quell'immagine legge 10 righe di descrizione, in quel momento lui sta facendo, è diventato attivo, sta creando, è creatore anche lui, no? Come uno scrittore. Ecco, se questo procedimento lo allarghiamo a tutta l'infanzia dei ragazzi che oggi usano questi i mezzi sempre, diciamo, quando sono più piccoli, capiamo la gravità anche di quello che può succedere e quello che sta succedendo. Ci sono c'è sempre meno capacità di astrarre, ci sono sempre meno parole per non solo per raccontare qualcosa, ma per esprimere i propri sentimenti. Per esprimere quello che si pensa. E quindi ecco, io non faccio sconti dal punto di vista linguistico, perché quando ero un ragazzo non li facevano con me, cioè il mio primo libro che ho letto, che mi ha fatto innamorare della lettura, l'ho letto a 10 anni, in realtà, cioè, no, non il primo libro che leggevo, il primo libro che mi è piaciuto tantissimo è stato il trampolino di lancio, ed era La mia famiglia e altri animali di Gerald Darrell. Me l'aveva regalato la mia maestra alla fine della quinta elementare e io mi sono innamorato di quel libro. L'ho ripreso poco tempo fa e ho pensato, ma come ho fatto a leggerlo a 10 anni? Nel senso che era complicato in certe cose e certi aspetti sicuramente non l'avevo capiti. Eppure mi era piaciuto tantissimo, ma perché io avevo colto altre cose e sicuramente leggendolo magari avevo imparato anche. E quindi non importa se non avevo capito tutto, diciamo, però per me era stato un battesimo del fuoco importantissimo, e questa è una cosa. Per quanto riguarda invece la difficoltà di scrivere per ragazzi, io credo che sia più difficile scrivere, appunto, cioè per un adulto sia più facile scrivere un libro per adulti, perché tu ti confronti con qualcuno che ha gli stessi strumenti, stai scrivendo per un pari. Mentre invece per un ragazzo ha degli strumenti diversi e ogni età, cioè se tu leggi Strambosco, io dopo aver scritto, allora c'è un libro per bambini di 7-8 anni che si chiama Strambosco, dove ci sono degli animali che hanno caratteristiche opposte a quelle che hanno nella realtà, quindi c'è il cinghiale che ha paura del fan, che non vuole sporcarsi, poi c'è lo scoiattolo con le vertigini, la talpa claustrofobica, la civetta buiofobica e via così, tutta questa, l'orsetto non lavatore, puzza. l'ho scritto cioè, più o meno insieme, e a un certo punto ho dovuto fermarmi perché stavo per fare una strage a Strambosco, no? Ma soprattutto poi quando l'ho ripreso, dopo aver scritto Una trappola d'aria, ho avuto veramente difficoltà a riprendere in mano gli strumenti della scrittura per dei ragazzi di 7-8 anni. Dai 13 anni in più, dai 13 anni in su non c'è credo nessun tipo di differenza. Però ecco, per rispondere alla tua domanda, questa è stata una cosa che ho sperimentato. Poi in Italia c'è questa grandissima differenza, no, tra letteratura per ragazzi e no, che non, che all'estero c'è molto di meno, ok? Mi ha detto uno scrittore che si chiama Pier Domenico Baccalario, che voglio dire, ha venduto credo milioni di copie nel mondo, e a un premio letterario gli hanno detto, da lui e un suo collega Alessandro Gatti, hanno detto, poi per la cena c'è il tavolo per dei ragazzi, dei bambini, ce l'hanno messo nel tavolo dei bambini, a cena. Così. Allora loro hanno ordinato due bottiglie di vino, le hanno messe lì, hanno iniziato a offrire ai ragazzi, aspettate, siamo venuti da noi. Questo è un brano invece che si chiama Controvento, e che col mio gruppo abbiamo scritto proprio pensando un po' a Valentina, alla sua caparbietà, no? È un po' descritta come una lama controvento, no? Che taglia le difficoltà. Sul mare, dove il fiordo bagna il tempo e la nebbia lenta sale, e mille racconti nella voce delle onde, nei tuoi sogni di bambina che ti spingono a guardare dove non si può. Ombra che ti allungherà le dita sugli occhi tuoi, il buio ti cerca già. E allora vai, vai, come lama contro vento, che mai, mai si piegherà, e ancora salverà la tua nave contro vento, e mai, mai affonderà. Sette colori in un soffio di vapore, contro il sole e il vento teso, dentro un mondo senza peso, e canta il mistero che nasce dal profondo dell'origine del male, che confonde poi sale dove non si sa. Un'ombra grigia allungherà le dita sugli occhi tuoi, il buio ti cerca già. E allora vai, vai, come lama contro vento, che mai, mai si piegherà, e ancora salverà la tua nave contro vento, e mai, mai affonderà. Sì, dopo due anni di pausa per il Covid, di sosta forzata, abbiamo ripreso. Ho la fortuna di avere un gruppo di amici che ho dal tempo del liceo, con i quali suoniamo ancora insieme, quindi abbiamo avuto questa avventura particolare, musicale. Sì, su YouTube trovate anche, io sono andata, ero curiosa, dove aveva scrittore, sì, sì. Andiamo a vedere. C'è successa una cosa pazzesca, tanti anni fa, insomma, avevamo fatto questo CD ispirato al Signore degli Anelli, al libro, non c'erano ancora i film, e così niente, io avevo composto queste cose, poi insieme le abbiamo registrate e via. Poi un giorno, e a quel tempo suonavamo alla festa della castagna, alla sagra, quindi diciamo contesti non molto elfici, molto hobbit ma poco elfici, e siccome la nostra musica era fatta soprattutto di atmosfere un po' sospese, era un po' difficile. Poi un giorno arriva una mail dagli Stati Uniti, che ci invita a suonare la prima mondiale del film Il Signore degli Anelli. Vabbè, uno scherzo ovviamente, abbiamo pensato, perché tra l'altro in quei giorni noi avevamo appena finito di fare uno scherzo tremendo al nostro fonico, illudendolo che ci fosse una fan. Quindi abbiamo creato una mail falsa di questa Giusy che gli scriveva, e lui ha cominciato a rispondere anche, no? E c'era il bassista che faceva queste cose qua. Niente di sconcio, niente di coso. Però un giorno è successa una cosa pazzesca. Eravamo a un concerto e prima di salire sul palco, allora Giovanni, come va con Giusy? No, perché lui ci aveva detto, e lui, l'ho vista. Lì, se ci fosse stato Peter Jackson o non lo so, Steven Spielberg, avesse visto la nostra reazione, ci avrebbe scritturato come attori, perché senza fare una piega gli ho chiesto: ah sì? E cosa è successo? E sono andato a prenderla, ha finito il corso di danza, perché lei faceva danza, cioè tutto nella nostra mente, ed era incredibile, perché improvvisamente anche agli altri quattro, cioè Giusy era vera, cioè era diventata vera. Quando abbiamo finito sta cosa abbiamo detto: ragazzi, ma chi glielo dice adesso? Cioè, non, poverino, nel senso che ha inventato anche sta cosa, allora dovevamo uscirne in qualche modo. E allora abbiamo trovato il modo di fargli capire attraverso, e gli abbiamo dato la possibilità di dirci che lui l'aveva capito, cioè che ci stava prendendo lui in giro, e quindi ne siamo usciti. Però dopo una settimana arriva sta mail, vabbè, è la vendetta di Giovanni, giustamente. E invece no, stranamente, diciamo, un giornalista, diciamo americano, una giornalista americana aveva trovato in rete un nostro brano, aveva scritto un articolo sulla musica ispirata a Tolkien su una rivista a nostra insaputa, era il 2000, non è che è il 2001, e questa rivista era stata letta da questo organizzatore di eventi che stava organizzando la premiere, diciamo, del film Il Signore degli Anelli. E quindi, ecco, una cosa sicuramente, no, gli americani possiamo criticarli, hanno tantissimi difetti, eccetera, però una cosa bisogna concedergliela: loro, se credono in una persona o qualcosa, un progetto, cioè loro non interessa veramente se tu non sei nessuno, cioè se tu noi non avevamo una casa di discografica, niente, era un progetto così tra amici, e improvvisamente ci siamo trovati alla corte di, cioè, a mangiare con gli attori, a suonare prima della proiezione. Cioè io ho detto: ma noi avremmo preparato anche una versione in inglese, e questo qua ci ha detto: no, l'italiano sembra più elfico. Pure in italiano. Questi 4, 5, 6 pezzi, non ricordo perché è una cosa nebulosa per me, ed è stato meraviglioso. Poi siamo tornati in Italia, abbiamo cominciato a fare la festa della carciofo, queste cose qua, però abbiamo un po' più, diciamo, sì, l'eco di questa cosa è arrivata anche in Italia, quindi abbiamo cominciato a fare dei concerti un po' più nelle nostre corde, soprattutto, cioè in situazioni più raccolte. No, perché una volta una castagnata, io avevo già deciso di non farle più, perché il problema è che io abito in un paese dove le castagne ce ne sono tante, e un mio amico assessore mi ha detto: Giuseppe, devi aiutarmi, perché il gruppo folk che doveva venire stasera non c'è, e io sono senza musica. Ho detto: guarda, la nostra musica non è adatta, cioè chitarre acustiche, robe così. Ho detto: no, ti prego, va bene, andiamo ragazzi, facciamo sta cosa, quindi andiamo. Ma la roba, cioè, sembrava proprio i tartari, no? Però noi abbiamo detto: noi adesso ci mettiamo in questa bolla e suoniamo, e del resto non importa, no? Va bene, allora, nel mezzo di un brano che si chiama Beren di Núvel, quindi storia di un principe elfico, di un principe mortale e una dama elfica, sento, cioè io chiudo gli occhi mentre canto, vi giuro, sento così. Uno, mi spavento qua, interrompo, e c'è un tizio che, scusa un attimo, con l'accento bello bergamasco, prende il microfono e dice: allora, l'estrazione dei biglietti della lotteria fra 5 minuti là. Poi rimette il microfono, mi dà una pacca, va avanti, va avanti. Però, voglio dire, se ve lo sto raccontando adesso, vuol dire che è un bel aneddoto, per cui alla fine sì, va bene. È da lì che ho iniziato a pensare di scrivere gialli. Sì, esatto, per eliminare qualcuno. Però fammi ancora una domanda, no? Come mai sei passato ai thriller? Perché poi avevamo accennato l'ultimo libro che è uscito nel 21, I Luci dalla Via del Lago, che sì, già era un po' trillino. E sì, da lì poi sei passato a... Ma in realtà, diciamo, questo percorso un po'... Allora, la scrittura dei Luci della Via Lago, dove sì c'è un giallo, e la scrittura della trama sono contemporanei, cioè durante il primo lockdown. Ah. Perché per rilassarsi in quel bel periodo luminoso ho pensato di scrivere un thriller. In realtà poi ho riflettuto su questa cosa. E in realtà mi ha aiutato moltissimo, perché credo che sia anche un po' il motivo del successo dei thriller, che sono un genere così, così amato e letto, anche nei momenti più cupi, ok? Perché comunque quando noi leggiamo, cioè almeno io nel scrivere un thriller ho la sensazione di controllare il male, cioè sono io che decido cosa succede, ok? Quindi questo controllo, e poi penso che in chi legge il thriller ha un'azione tranquillizzante, perché comunque sai già dall'inizio che il mistero verrà svelato, che non vuol dire che l'assassino, diciamo, verrà arrestato, oppure finirà in prigione, oppure che il buono vivrà o morirà. No, che il mistero verrà svelato. Cioè, il thriller, secondo me, soddisfa uno dei nostri bisogni più arcaici, cioè far luce sui punti oscuri. Una sete di conoscenza, anche se vogliamo. Ci mettiamo alla prova anche, no? Concorriamo con l'ispettore di turno. E quindi, in realtà noi... E l'amore per il thriller e per questo metterci anche la prova di fronte alle nostre paure lo facciamo già da bambini, col gioco più famoso del mondo, nascondino. Esatto. Cioè nascondino è quello che, cioè, da piccoli noi giocavamo nascondino, da adulti leggiamo un thriller o vediamo un thriller e ci sono tutti gli ingredienti. Ti devi nascondere, sei in pericolo di vita perché se ti nel gioco perché se ti sei eliminato. Spesso si fa in luoghi bui, c'è la fuga quando ti trovano, c'è la salvezza, la tana, e quindi già lì c'è un po' tutto il nostro bisogno di, appunto, di metterci alla prova, di entrare anche nei luoghi bui per diventare grandi. Ed è bello, ed è piacevole poter mettere alla prova quando non rischi niente, come ovvio, quindi i thriller ti danno questa possibilità. C'era anche un bel libro che leggevamo molti anni fa, Il piacere di aver paura, che era anche un po' una risposta simile a quella che hai dato tu adesso. Interessante. Bene, adesso... Prego. Come sei passato dagli studi di scienze alla scrittura? Cioè, come si sveglia la mattina, dice, allora, io sono passato alla scrittura grazie a un oggetto che, cioè, questo è stato quello che mi ha dato là, in realtà, che vi faccio vedere, lo porto sempre perché poi, soprattutto quando so che devo andare nelle scuole, ha a che fare con quel turno di volontariato che ha fatto da ragazzo, esatto. È un tappo di Nutella, però è smangiucchiato da un orso marsicano, perché quando io sono stato lì c'era un orsa che si chiamava Yoga, proprio dall'orso dei cartoni animati, che era esperta nel rubare la merenda ai turisti, l'aveva chiamata Yoga per questo, e questo è uno dei cimeli che, quindi lei non era riuscita a svitare il tappo, ma l'aveva distrutto così, e questo tappo poi io l'ho tenuto per tantissimo tempo, diciamo così, in un cassetto, e proprio una decina d'anni fa, ritrovandolo, mi è venuta voglia di scrivere una canzone ispirata a un orso che era stanco di... Anzi, se volete poi possiamo chiudere, magari, se volete, con questa canzone, se vi va. E quindi ho scritto questo brano, e poi ho pensato che sarebbe stato bello provare a scrivere un racconto, qualcosa di più, no? E così poi pian piano è nato il libro, diciamo, Il passaggio dell'orso, che ho scritto un po' per me stesso, in realtà, e poi, vabbè, poi il destino vuole che magari lo legga a una persona che ti dice guarda, questo c'è un editore che sta cercando questo tipo di storia. Beh, in quel periodo c'era Salani che dopo e contemporaneamente al grandissimo successo di Harry Potter stava cercando delle storie legate all'ambiente che in modo non didascalico, diciamo, coinvolgessero i ragazzi, una storia molto realistica per distanziarsi un po' anche da fantasy che loro stavano esplorando così bene, e quindi hanno proposto questo libro, e da lì poi è nato tutto. Quindi credo però che comunque, per rispondere anche in un altro modo alla tua domanda, la musica mi abbia aiutato nello scrivere. Cioè, scrivere una canzone, una musica, e scrivere un libro, un testo, non è così differente. Cioè, è differente, ma ci sono tante similitudini. In entrambi c'è un ritmo, c'è una musicalità nelle parole, sono dei crescendo. Ci sono delle situazioni, diciamo, di gioia in una frase che tu puoi dire come un accordo maggiore, o delle situazioni tristi come un accordo minore. Ci sono dei crescendo, ci sono delle pause, e poi ci sono dei colpi di scena. In un libro sappiamo tutti cos'è un colpo di scena, in una canzone è una soluzione armonica in un ritornello che ci colpisce, che ci fa dire questo pezzo non è già sentito, oppure lo voglio riascoltare ancora. L'unica differenza più clamorosa è sul finale, perché diciamo, cioè il finale è una canzone, lo butti lì come viene, non se ne accorge nessuno. Cioè, non credo che voi ricordiate una canzone che come finisce bene, cioè, sì, cioè finisce male così. Cioè quello, ok. Invece in un libro se sbagli il finale sei finito proprio, nel senso letteralmente. Per cui ecco, è stato un percorso di questo tipo. Poi io avevo una professoressa al liceo, ho fatto il liceo scientifico, ma in realtà è come se avessi fatto il classico, perché avevo un professore di matematica che era un disastro, e invece questa professoressa, la professoressa Ghiringhelli, che ci ha fatto amare tantissimo la letteratura. E poi, incredibile, me la sono vista a una presentazione a Milano, era venuta con altri miei compagni di allora che non vedevo da allora. È stata una cosa super. Però alla fine, quando c'è stato il momento delle domande, vi giuro, si è alzata con un foglio in mano. Si è alzata, e non solo si è alzata, di sua spontanea iniziativa è venuta sul palco. Cioè io terrorizzato mi sono ritrovato, no? Studente con lei. Allora, testa, allora, brancoli nel buio, lei dice brancoli nel buio, no, brancoli nella nebbia, questo era la sua. E invece si era segnata, carinissima, si era segnata dei passaggi del libro, ed è stato un momento che ricordo con grande affetto, la professoressa Ghiringhelli. Quindi, insomma, le insegnanti sono importanti. È la verità. Qua siamo molto convinte di questo. Però è una platea convinta di questo. Beh, anche ho avuto la possibilità di rivedere anche la mia maestra, in realtà, la maestra Patrizia, che, alla quale devo quel libro di Gerald Darrell, che mi ha fatto innamorare della lettura. Vabbè, vi faccio questo pezzo allora. Sì. Non richiesto, però. Non richiesto, suggerito. Si intitola Sogni d'oblio, ed è proprio il sogno di questo orso, potrebbe essere qualsiasi animale selvatico in realtà, che sogna l'oblio proprio, sogna di essere dimenticato dall'uomo, è stanco di essere sempre costretto a scegliere tra fuggire o morire di fronte all'avanzata dell'uomo. Il vento consegna messaggi segreti, sfiorando la pelle del lago. I corvi lucenti volteggiano neri nel cielo, spezzando i sospiri di maggio. Dal riparo che ho scelto respiro la valle che freme di verde smeraldo. All'orizzonte le nuvole avide abbracciano il sole alla fine del giorno, quando gli occhi brillanti sospesi nel cielo. abbaglia in quel bosco un odore che già conosco. Verso l'alto passaggio un sentiero nascosto, ora forse ti porterà in salvo, ma sono stanco di questo fuggire o morire che sempre accompagna il mio passo. Quando l'alba incorona di brina le foglie, regine di un regno che dorme, i monti si accendono d'oro e di rosso amaranto, e rubino e gli occhi del vento, nella pioggia sottile che scende paziente e accarezza il mio prossimo sonno. Un piede lascia pesante nel fango una traccia, l'eterna e silente minaccia. Quando il bosco si spoglia lasciandomi nudo, la nebbia nasconda il mio manto, tra fiumi immobili e mute, colonne di ghiaccio che il buio mi avvolga d'incanto. Verso l'alto passaggio un sentiero nascosto, ora forse mi porterà in salvo, ma sono stanco di questo fuggire o morire che sempre accompagna il mio passo. Per sottolineare quello che vi ho detto prima del finale. Professore, prima di lasciarci, ci diresti, so che hai tanti altri libri, sì? Ci puoi dare una piccola anticipazione? Invece sono curiosa, è la mia curiosità, spero anche la vostra. Sì, allora, beh, per i ragazzi, martedì prossimo, mi sembra, il 25, escono due nuove libri di Strambosco, quindi con gli animali strambi, cioè, per i bambini dei 6-7 anni, per i bambini della scuola primaria, con nuove entrate, il lupo vegano, le lucciole fulminate e poi tanti altri personaggi. Mentre invece sto lavorando a un libro che è una non fiction, quindi una storia vera, anche se è romanzata, eccetera, che si intitolerà L'estate dell'orsa maggiore, uscirà a marzo dell'anno prossimo. Torno in Abruzzo, torno con gli orsi, per raccontare una storia meravigliosa di una biologa che si chiama Roberta Latini, è la storica biologa del Parco Nazionale d'Abruzzo, che qualche anno fa loro hanno trovato questa cucciola d'orso, morena l'hanno chiamata, un batuffolo così, orfana. Non era ancora svezzata, era il primo caso, diciamo, di orso marsicano e non c'erano casi simili neanche in Europa. E avevano varie scelte e hanno scelto quella più difficile, cioè prenderla, svezzarla, cercando di non farla imprintare troppo con l'uomo. Quindi è una cosa che poi di cui si è occupata soprattutto lei, Roberta, per tentare di liberarla. E siccome ci sono soltanto 50 esemplari circa di orso marsicano, di cui una quindicina di femmine, delle quali 4-5 in età riproduttiva, capite che è una delle specie più rare del mondo, quindi anche un singolo individuo può fare la differenza. La cosa bella, e per la quale Roberta ci ha messo 4-5 anni per decidersi a raccontarmi su questa storia, è che l'ha vissuta in maniera molto personale, anche perché lei in quel periodo stava vivendo un momento difficile suo personale, e Morena l'ha aiutata tantissimo. È come se si fossero fatte una promessa reciproca: se ce la farò io, ce la farai tu. E questa è, diciamo, il cuore della storia, e vabbè, insomma, lo sto scrivendo in questi giorni, è stato un privilegio poter parlare, per poter raccontare questa storia. Grazie, grazie, grazie. Posso ringraziare anch'io? Prego, Maurizio. Vieni, Maurizio, che così sì, fai tu la conclusione. Ecco. Niente, il mio ringraziamento intanto a voi che siete presenti, che siete venuti a questo appuntamento. A Giuseppe che ha accettato, ma io il mio ringraziamento va a Mirka. Ci conosciamo da qualche anno e dovendo io gestire questa commissione cultura, qui c'è un altro dei nostri consiglieri, nonché partecipante, che è Cesare, che si occupa tra il resto di montagna terapia, quindi come accompagnatore porta in montagna persone con disabilità, soprattutto psichica, ed è una cosa bellissima che il CAI sta facendo in tutta Italia, e qui a Bolzano in particolare lui è il nostro referente e veramente sta facendo un ottimo lavoro. Però il ringraziamento, dicevo, a Mirka, perché ha accettato la mia proposta di entrare nella commissione cultura del CAI e cercare di avvicinare quello che era un mio desiderio, venendo io dal mondo della scuola anch'io, perché ero un insegnante fino a una decina di anni fa, e avvicinare i ragazzi alla lettura, alla costruzione di qualcosa, anche perché come CAI ci interessa soprattutto seguire i bambini e i ragazzi in una crescita positiva, possibilmente. E credo che la lettura di determinati libri siano proprio uno strumento efficace per stimolare in loro qualcosa in più, che è quello che credo riteniamo. Ecco, il CAI è presente, ci fa piacere se qualcun altro viene a darci una mano, perché abbiamo sempre bisogno di persone che seguono e che ci daranno anche il cambio, perché per un po' noi duriamo, poi è vero Cesare, cioè, se c'è un ricambio ci fa molto piacere. Però ecco, quindi questo grazie enorme, perché questo progetto di avvicinare, di entrare nelle scuole come CAI prima di tutto, ma di avvicinare i ragazzi attraverso persone competenti come Mirka e come altri insegnanti che so che con Mirka stanno collaborando, a noi fa molto piacere. A me dispiace che domani non potrò essere nella scuola perché ho un appuntamento a Milano e devo correre giù velocemente, però ecco, io spero che ci siano altre occasioni. Poi Giuseppe, mi farebbe piacere che poterti rivedere a Bolzano, perché sì, volentieri. Hai entusiasmato con questo racconto, questa verve e questa capacità. Beh, potrebbe essere un'occasione l'uscita del libro sugli orsi, che tra l'altro ha molte, diciamo, sono cose che riguardano anche voi, perché certo, in realtà certo. Ecco, gli orsi quasi ne parte. E grazie alla biblioteca Claudio Augusta, perché Valeria è sempre disponibile per queste cose, no? Grazie e buona serata a tutti voi. Grazie. Una cosa che mi ha colpito molto è stata la capacità che ha il nostro autore di cogliere la bellezza della vita, no? Perché magari per qualcuno può essere non significativo il fatto che una persona abbia un momento di difficoltà e unirlo ad un altro aspetto, un'occasione, una casualità di un animale ritrovato. Ecco, cioè questa saper unire degli aspetti, valorizzarli e cogliere la bellezza nelle situazioni più disparate, veramente mi ha colpito moltissimo. Ringrazio tanto. Grazie, no, per grazie, questa grazie. Dote non molto diffusa, ma che serve a tutti noi. Grazie. Grazie a tutti voi per l'applauso.